giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Maltempo, mareggiate, smottamenti e danni, sopralluogo dell'assessore alla protezione civile Riccardi nelle località più colpite. Il day after di grado, ieri esercizi pubblici allagati, oggi di nuovo pronti ad accogliere i turisti. A Trieste le buste paga più pesanti della regione per i lavoratori del privato, Gorizia resta sotto la media nazionale. Boom di presenze a Trieste all'open day di presentazione del termovalorizzatore di recente rinnovato. In regione un under 30 su 3 è fumatore tra le donne, la maggior incidenza in Italia di tumore ai polmoni. 12:31 minuti, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. È partita questa mattina una prima ricognizione dei danni sopportati dal territorio dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione negli ultimi giorni, prima con piogge violente, poi con la concomitanza tra un'alta marea astronomica particolarmente forte e il forte vento di Libeccio. Sentiamo. Sopralluogo dell'assessore Riccardi in alcune zone colpite dal maltempo dei giorni scorsi, che ha causato smottamenti e allagamenti in diverse zone del Friuli Venezia Giulia. Tranne smottamenti dovuti soprattutto alla grande quantità di acqua caduta nelle scorse ore, lo staff della Protezione Civile assieme agli amministratori locali hanno fatto una prima valutazione sull'entità dei danni alla frazione di Coia Zome Ais nel comune di Tarcento, a Monte Bernardia e in altre aree dell'Alta Valtorre. L'assessore Riccardi ha già firmato alcuni decreti e altri verranno firmati per la messa in sicurezza delle strade e per risolvere gli smottamenti causati. Diversa sarà la situazione e sarà da valutare per l'entità dei danni nella costa. Altra zona duramente colpita dagli eventi atmosferici della notte è stata soprattutto la zona costiera di tutta la regione. Anche oggi Sistiana, situazione difficile nel comune di Muggia, dove la strada per il confine di Lazzaretto è interessata da una frana su cui gli uomini della Protezione Civile stanno lavorando. Acqua alta a Trieste, nei pressi degli stabilimenti balneari vicino al castello di Miramare, dove il livello del mare ha sommerso parzialmente le spiagge di cemento e gli arredi nei locali limitrofi. A Lignano Sabbia d'Oro è già iniziata la conta dei danni sul litorale spazzato dalle violente mareggiate e dal vento di scirocco, a farne le spese soprattutto il faro e l'arenile. I danni maggiori si sono registrati a Pineta, dove le protezioni non sono bastate ad arginare la forza del mare, causando una notevole erosione della spiaggia. Tarcento, Giovanni Torvina, TGR Friuli Venezia Giulia. L'allerta gialla per il nuovo rischio di acqua alta nelle località costiere della regione si è conclusa poco fa, mezzogiorno. Sentiamo nel servizio come è stata vissuta la mattinata a Grado. Centro di Grado ancora interdetto al traffico dalle 8:50 di stamane. L'acqua alle 9:40 ha raggiunto un picco di 144 sul medio mare, superando le previsioni che davano 129. Un livello comunque di gran lunga inferiore a quello di ieri. Allagate le aree circostanti al porto e al canale e alcuni garage nella zona del molo torpediniere. Ma giungono anche notizie dalle ricognizioni effettuate nelle valli da pesca della laguna. Ad un primo esame risulta seriamente danneggiato un argine della valle Arastorta, vicino all'isola Ravaiarina, con fuoriuscita del pesce in allevamento. Intanto nei bar e nei ristoranti si sta lavorando a pieno ritmo per la ripulitura dopo gli allagamenti. Sull'isola infatti ci sono ancora molti turisti che apprezzano l'autunno mite di questi giorni. Alla spiaggia principale della concessionaria Grado Impianti Turistici le aree più frequentate sono già state liberate dai detriti e il ristorante Antiche Terme è praticamente sold out. Alcuni turisti austriaci e tedeschi si sono anche lanciati in acqua per assaporare l'ebbrezza delle onde quasi oceaniche. Grado, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora uno sguardo all'attuale situazione meteo. Il cielo è da poco nuvoloso a variabile su tutta la regione. Le temperature registrate alle 11 a Trieste e a Gorizia 19 gradi e 5 decimi, a Udine 19 gradi, a Pordenone 17 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 14 gradi, a Forni di Sopra 11 gradi e mezzo, a Tarvisio 9 gradi e 5 decimi, sul Piancavallo 8 gradi e mezzo, a Sappada 8 gradi, sul Monte Lussari 5 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan 5, sulla costa Grado 19 gradi e mezzo, Lignano 19. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi pomeriggio: cielo da poco nuvoloso a variabile, possibile ancora qualche locale rovescio. E adesso parliamo di povertà sempre più diffusa tra le famiglie della regione. A dirlo sono gli ultimi dati Istat. È la fotografia di una situazione peggiorata rispetto all'anno scorso a causa dell'inflazione. Gli ultimi dati diffusi dall'Istat rilevano per il nord-est 408.000 famiglie in povertà assoluta nel 2022, il 7,9% contro il 7,1% del 2021. Peggiora l'incidenza per le famiglie italiane da 4,5% a 5,1%, ma quella delle famiglie straniere rimane la più alta al 27,8% e in ogni caso risulta maggiore nelle famiglie in cui la persona di riferimento ha al massimo la licenza di scuola elementare o nessun titolo di studio. Se parliamo di singoli individui, nel 2022, sempre a nord-est, i poveri erano l'8,8% contro l'8,1% dell'anno prima. I dati, sottolinea l'Istat, potevano essere più alti senza i bonus sociali per energia e gas potenziati. I dati macro-regionali valgono anche per il Friuli Venezia Giulia, osserva il ricercatore dell'IRES Alessandro Russo, che rimarca come il peggioramento sia in larga parte dovuto all'inflazione e alla perdita di potere d'acquisto delle famiglie, oltre che a un lavoro che appare più discontinuo, con una diminuzione delle ore lavorative tra gli occupati. Un quadro già evidenziato dai dati Caritas, alla quale nel 2022 hanno chiesto aiuto 4.393 corregionali, aumentati in un anno del 4,4%, quasi un quarto dei quali erano lavoratori poveri. La conferma che i redditi da lavoro oggi non bastano più a garantire una vita dignitosa a se stessi e alla propria famiglia, segnala la responsabile dell'ufficio studi di Caritas Trieste, Vera Pellegrino, che richiama anche la crescente difficoltà ad andare avanti fra i pensionati over 65 e nella fascia d'età tra i 55 e 64 anni. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. I temi dell'economia: meglio lavorare a Trieste che a Gorizio, almeno così risulta dai dati dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale registrati nel 2021, perché le buste paga più consistenti sono proprio quelle dell'area giuliana, a fronte di una retribuzione lorda media all'anno di 24.700 euro, dove invece quelle esontine si fermano a 20.800. L'analisi elaborata dall'Ufficio Studi della Confederazione Generale Artigianato CGA di Mestre spiega come i maggiori importi del capoluogo regionale si debbano alla presenza di realtà produttive o di servizi di livello internazionale, quali Fincantieri e Assicurazioni Generali, che consentono ai triestini di posizionarsi anche al di sopra della media nazionale, pari a 21.800 euro. L'area pordenonese si colloca al secondo posto nella classifica regionale del settore privato con 23.450 euro all'anno, seguita da Udine con 22.100, ultima appunto Gorizia, che si pone quindi al di sotto della media nazionale. Dal punto di vista regionale, il Friuli Venezia Giulia con 22.800 euro di retribuzione media è quinto dopo la capolista Lombardia, dove la media è di poco sopra i 27.000 euro. Tutti importi che sottolineano ancora una volta il divario fra nord e sud, tuttora presente in Italia, il cui fanalino di coda è la Calabria, con retribuzioni medie di 13.800 euro e che evidenziano come molti contratti nazionali non siano stati ancora rinnovati, impedendo così ai salari di rimanere agganciati all'inflazione, al costo delle abitazioni e ai livelli di produttività locale. E cambiamo argomento. Friuli Venezia Giulia si conferma territorio vocato ad ospitare manifestazioni sportive di carattere internazionale. Lo ha detto il governatore Massimiliano Fedriga commentando la designazione ufficiale di Tarvisio come sede dei campionati mondiali junior di sci alpino 2025. Cominceremo subito a lavorare con la FISI, la Federazione Sport Invernali, ha aggiunto Fedriga, ricordando come 23 anni dopo il torneo iridato torni sulle piste della regione con Tarvisio che ospiterà le 6 discipline di gara in programma tra febbraio e marzo del 2025. Fedriga ha aggiunto che la regione ha continuato a investire sui poli sciistici della sua montagna per migliorare le strutture e rafforzare l'attrattività, ha creduto nel suo patrimonio bianco, garantendo esiti eccellenti quando è di scena lo sport di altissimo livello. Passiamo alla cronaca. Un 47enne residente in Friuli è finito in manette per spaccio di stupefacenti. Ad arrestarlo i carabinieri della stazione di Maiano con la polizia locale di Coloredo di Montalbano, nell'ambito di servizi finalizzati proprio al contrasto dello spaccio di droga. Nella casa dell'uomo le forze dell'ordine hanno trovato quasi 900 grammi di marijuana e materiali per la coltivazione, l'essiccazione e la vendita dello stupefacente. L'uomo è stato portato in carcere a Udine. Ancora cronaca, viene fermato perché la revisione del veicolo risulta scaduta e si scopre che guida con la patente revocata da un anno e anche in stato di ebbrezza alcolica. A scoprirlo la polizia stradale di Amaro, che stava effettuando dei controlli lungo il tratto dell'autostrada A23 tra Gemona e Carnia. La scoperta è stata possibile grazie all'apparecchiatura denominata Street Control, in uso su tutti i mezzi, che consente da una lettura ottica della targa dei veicoli in transito l'immediato accertamento presso le banche dati e che viene utilizzato soprattutto per individuare quelli che guidano privi di copertura assicurativa o senza aver revisionato il veicolo. Il conducente alla guida dell'auto aveva dichiarato, una volta fermato, di aver dimenticato di prendere con sé la patente, ma un rapido controllo sulla banca dati del Ministero dell'Interno ha permesso di scoprire subito che la patente si trovava in prefettura proprio perché revocata da un anno. Pesanti le sanzioni applicate anche per i risultati dell'alcol test effettuato, 6.000 euro e il fermo amministrativo del veicolo. I temi dell'ambiente, boom di presenze a Trieste all'Open Day di presentazione del termovalorizzatore di recente rinnovato. Da un pubblico attento, incuriosito, eterogeneo, di età diverse, quello che ha scelto di partecipare alla visita guidata a porte aperte del termovalorizzatore di Trieste, 300 adesioni in poche ore, quelle arrivate agli uffici del gruppo ERA, un numero talmente alto che è stato necessario aprire ad una seconda data, il 18 di novembre, anche questa è andata subito sold out. Ci incuriosiva capire che cos'è questo impianto, ci raccontano le persone. Mai avrei immaginato una cosa tanto complessa, dice un signore che ha portato pure il figlio piccolo. Tra i visitatori e anche i figli di dipendenti per la prima volta nel luogo di lavoro del papà. Il termovalorizzatore è stato recentemente rinnovato, il cosiddetto revamping, è aumentata l'efficienza, l'affidabilità e la nuova turbina più performante arriva a generare 145 gigawatt ora di elettricità l'anno. L'obiettivo è e deve essere la raccolta differenziata. Trieste purtroppo ancora bassa in percentuale, siamo al 45%, ma quello che non si può differenziare, dicono gli ingegneri che ci accompagnano nel tour, va per forza bruciato e così produciamo energia. Questo impianto infatti produce energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico di 180.000 persone, 15.000 in più rispetto all'impianto precedente. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. In regione quasi un giovane su tre sotto i 30 anni è un fumatore. Il dato è emerso ieri nell'ambito del convegno Una sigaretta non è solo una sigaretta, organizzato dalla storica società operaia di Pordenone. Le conseguenze già si rivelano molto gravi, soprattutto per le donne, che in Friuli Venezia Giulia registrano le percentuali più alte d'Italia di tumore ai polmoni, mentre al contrario quella maschile è la più bassa. Indice, ha spiegato Diego Serraino, direttore di epidemiologia oncologica del CRO di Aviano, che le campagne antifumo degli anni passati hanno avuto successo sulla popolazione dei fumatori, fino allora prevalentemente maschile, ma hanno anche lasciato spazio a nuove mode come quella della sigaretta elettronica. Si comincia a fumare già verso gli 11 anni, innescando comportamenti comportamenti che poi tra i 15 e i 18 anni possono trasformarsi in vera e propria dipendenza che, hanno sottolineato ancora una volta i sanitari, finirà nel prossimo futuro per creare un serio problema di salute pubblica quando le conseguenti patologie cronico-degenerative si manifesteranno in tutta la loro gravità e incidenza sociale. La pagina della cultura ad Hangar Teatri a Trieste, l'attore Paolo Rossi ha portato in scena per una sola volta e senza conoscerlo il testo di un autore iraniano che continuerà ad essere replicato da altri interpreti per raccogliere fondi a favore di giovani autrici e autori del suo paese. Esperimento sociale in forma di spettacolo, talmente sperimentale da essere per iniziativa dell'autore coperto dalla riservatezza. E così possiamo descrivervi solo l'imbarazzo di Paolo Rossi prima di andare in scena con un testo che non ha mai letto prima. Il testo si chiama White Rabbit, Red Rabbit e lo ha scritto Nassim Soleimanpour, autore iraniano che all'epoca aveva 29 anni e non poteva comunicare in alcun modo con l'esterno del suo paese. Non è un testo politico ma metaforico, precisa l'autore stesso, ed è tutto quello che ci chiede di dire per non rovinare l'alone di segretezza che è una delle regole del gioco. Segretezza ormai relativa, visto che White Rabbit, Red Rabbit venne rappresentato per la prima volta 12 anni fa, è stato tradotto in 25 lingue e conta più di 1000 repliche. Paolo Rossi però non ne sapeva niente, gli hanno dato una boccetta da tenere in tasca e poi hanno aperto la busta chiusa con il testo. Tutto il resto vi tocca immaginarvelo, anche perché Paolo Rossi questo testo non lo reciterà mai più. Altri artisti lo porteranno sulla scena in altre città italiane e il ricavato di queste repliche nel corso della stagione servirà a realizzare una residenza di drammaturgia per giovani autrici e autori iraniani che si svolgerà l'estate prossima in Sardegna. Trieste, Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Questa sera a Grado il 55esimo Festival della Canzone Gradese. Lo spettacolo si terrà dalle 21 al Palazzo dei Congressi. L'evento ritorna dopo un anno sabbatico seguito alla morte di Sebastiano Corbato, musicista, paroliere, interprete di numerose canzoni in dialetto gradese. Lo slittamento dal consueto periodo primaverile invece a causa dei lavori di adeguamento del Palazzo dei Congressi che non sono ancora conclusi. Ogni anno però ci sono meno autori, meno interpreti e l'interesse dei più giovani scema, fa notare il presidente Fabio Marchesini, che anticipa nuove iniziative rivolte soprattutto verso il mondo giovanile, provando a coinvolgere e motivare i ragazzi magari con un nuovo formato come un festival della canzone dialettale riservato proprio ai più giovani. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti musicali di oggi. Propone un viaggio nelle strade della capitale tedesca, scusate per l'arte, la mostra personale Berlin 2010 dell'artista di Cormons Cristiano Vernole a Ronchi dei Legionari nella sede dell'associazione Le Ali delle Notizie di Piazzetta Francesco Giuseppe. Inaugurazione alle 18, l'allestimento sarà visitabile fino al 24 novembre. Settima edizione del progetto di arte contemporanea Mind the Gap, che in due diversi spazi espositivi allestirà i lavori di 5 artisti internazionali le cui opere sono state ospitate già nelle principali istituzioni d'arte contemporanea mondiale. L'inaugurazione a Udine allo spazio 35 alle 18 e poi alle 19.30 al Visionario. La mostra sarà aperta fino al 26 novembre. I confini separano, la natura unisce, la mostra di giovani artisti che espone illustrazioni di piante e paesaggi di confine e che includerà un angolo dedicato all'artista goriziano Giacomo Poeroni. Inaugurazione alle 16 al Parco Basaglia di Gorizia. Terza tappa della mostra diffusa, Il secolo di Aldo Bressanuti, che sarà inaugurata con una introduzione di Marianna Cerboni e sarà accessibile fino al 10 novembre a Trieste alla Galleria Rettori Tribbio. Alle 16.30 la libreria Ubik in Galleria Tergesteo a Trieste è in programma la presentazione del libro Madri Imperfette di Monica Cardoso Diaz. A parlare del volume della scrittrice uruguaiana ci sarà la traduttrice Fernanda Relia. Proloco in Friuli Venezia Giulia, 40 anni di impegno e passione, l'incontro organizzato in occasione del 40° anno di attività dell'Unione Nazionale Proloco Umpli e dei 120 anni della Proloco Pro Gemona, in calendario oggi a Gemona, al Cinema Teatro Sociale alle 17. E ora gli appuntamenti musicali di oggi. Nella Chiesa Evangelica Metodista di Gorizia in programma il concerto intitolato Dalle canzoni popolari irlandesi agli inni di tradizione anglosassone a cura dell'orchestra barocca triestina, appuntamento alle 18 in via Diaz. E alle 16.30 al Circolo Tomè dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di via Battisti 2 a Trieste, concerto di pianoforte a quattro mani con Franca Valtingoyer e Ezio Costantini su musiche di Schubert, Beethoven, Ravel e Grieg. Per il 33° Festival Castello di Gorizia, premio Francesco Macedonio, il primo spettacolo in concorso è Rumori fuori scena di Michael Frayn nell'allestimento del gruppo Einaudi Galilei di Verona, appuntamento alle 20.30 al Culturni Dom di Gorizia. E ora spazio alle anticipazioni delle rubriche della TGR del Friuli Venezia Giulia di domani su queste frequenze. Il nuovo appuntamento con Vita nei Campi, la trasmissione radiofonica dedicata ad agricoltura, ambiente ed enogastronomia. Vita nei Campi, settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, non della domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura i progetti dell'ERSA per la rinascita della castagnicoltura in regione. A seguire la storia di Angelo Floramo che racconta della notte dei morti, notte magica che li metteva in contatto con i vivi. Il caco, pianta generosa che richiede però una serie di conoscenze e accorgimenti per la miglior riuscita. Con i sommelier la gestione del tappo delle bottiglie di vino al momento dell'apertura. E ancora per la rubrica della conservazione e trasformazione alimentare, castagne ancora con le vecchie tecniche adottate nel mondo agricolo. Nella carrellata dei fiori oggi discende la facile Gaulterie con tante soddisfazioni e poche cure. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsione del tempo, il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. È in televisione sul terzo canale domani alle 11.05, ma anche su Radio Rai 1 alle 6, torna Est Ovest, finestra di approfondimento sull'attualità dell'Europa orientale e dei Balcani. Sentiamo nel sommario. I disagi della popolazione locale e dei lavoratori transfrontalieri per la riattivazione dei controlli alla frontiera con la Slovenia. La sindrome italiana e la tristezza e le difficoltà psicologiche delle badanti romene causate dalla lontananza dalle famiglie. Stefan Comandare, il regista che presenta i traumi, le paure ma anche le speranze della Bulgaria in cerca di futuro. Gli Arbresh, la minoranza linguistica albanese, una comunità storica che lavora per mantenere vive le proprie tradizioni. I romanzi e i racconti di Robert Perisic scritti che presentano la storia della Croazia dall'antichità a oggi. Tutto questo a Est Ovest, domenica alle 11.05 su Rai 3. Torna in vigore l'ora solare alle 3 di notte, le lancette dell'orologio dovranno essere spostate di un'ora indietro, si dormirà dunque un'ora di più. Nei 7 mesi di ora legale il sistema elettrico italiano ha beneficiato di minori consumi di energia per 370 milioni di kilowattora, pari al valore di fabbisogno medio annuo di circa 140.000 famiglie per un risparmio economico, calcola Terna, di circa 90 milioni di euro e 180.000 tonnellate di emissioni di CO2. L'ora solare resterà attiva fino all'ultimo fine settimana di marzo del 2024. Nella notte fra sabato 30 e domenica 31 marzo del prossimo anno si tornerà all'ora legale. Ed era l'ultima notizia di questa edizione del Giornale Radio, in regia Roberto Cavallari e Mauro Cumin. In redazione ha collaborato Samantha Gon, da Maria Spezia e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.